Valentina gioca i numeri all'otto e ancora non sa più dove andare. Valentina gioca i numeri all'otto, però non sa cosa pensare. Se pensare di vincere oggi o dover continuare a pagare. Tutta una lotteria, tutta una lotteria. Valentina continua a giocare all'otto e i bambini che sono di sotto, che giocano a palla e rincorrersi per divertirsi. Valentina è andata a comprarsi un gelato, però non resisterà più di comprare almeno un gratta e vinci e poi riprovare così. Non avrei fortuna. È la fortuna. La vita